95. Pappardelle con la lepre primo. La carne della lepre, essendo arida e di poco sapore, ha bisogno in questo caso di venir sussidiata da un sugo di carne di molta sostanza per ottenere una minestra signorile. Eccovi le dosi di una minestra per 5 persone, che per tante, a mio avviso, deve bastare una sfoglia di 3 uova, tagliata a forma di pappardelle larghe un dito, con la rotella smerlata, oppure per grammi 500 o 600 di strisce di pasta comprata. I 2 filetti di una lepre, che possono pesare in tutto grammi 180 a 200, compresi i rognoni. Burro, grammi 50, carne secca, grammi 40, mezza cipolla di mediocre grandezza, mezza carota, un pezzo di sedano lungo un palmo, odore di noce moscata, parmigiano quanto basta, una cucchiaiata di farina, sugo di carne, decilitri 6. I filetti spellateli da quella pellicola che li avvolge e tagliateli a piccoli dadi. Poi fate un battuto con la carne secca, la cipolla, il sedano e la carota. Tritatelo ben fine con la lunetta e mettetelo al fuoco con la terza parte del detto burro e con la carne di lepre, condendola con sale e pepe. Quando la carne sarà rosolata, spargeteci sopra la farina e poco dopo bagnatela e tirate la cottura col detto sugo. Prima di servirvi di questo intingolo, aggiungete il resto del burro e la noce moscata. Le pappardelle, o strisce che siano, cotte nell'acqua salata, levatele bene asciutte e conditele sul vassoio senza rimetterle al fuoco, con parmigiano e l'intingolo suddetto. In mancanza dei filetti, servitevi dei coscetti.